sul 10, avanti. Avanti sul canale 10, avanti. Avanti sul canale 10, c'è qualcuno? Avanti 10. Ciao Claudio. No, da questa parte, chi sei? Giovanni? No, sono Cristian. Ciao Cristian, buonasera. No, Giovanni, ci vi abbasso di nuovo, va tranquillo. No, se mi senti un po' diverso è il mio tono di voce, perché c'è un po' di raucedine. Va tranquillo, no, è che non è raucedine. Anzi, io sono uscito oggi da casa, che io ho già passato il vaccino. Io come esco la mattina presto, capito, alle 4:30 a volte, i servizi esterni, poi stai dentro il caldo, poi devi uscire e quello ti frega. Un giorno a casa, anzi due giorni a casa, dopo il vaccino che mi ha dato febbre e maldita qua forte. E adesso vedo, perché praticamente sono da avanti ieri, oggi sto un po' meglio, febbre niente, solo un po' di mal di gola che mi è passato, niente, ho fatto anche un tampone di quelli lì, il risultato negativo, perché ho detto non si sa mai, l'ho comprato in farmacia, però non ho niente, solo un po' di raffreddore i giorni scorsi che mi ha lasciato un po' lo strascico della voce, capito? Va tranquillo, già passa tutto, vai. Sto piano. Un po' di uccidere, andiamo a far male, dai. Già passa su, lì. Ciao. Un po' di... guarda. Vicino al passo. Beh sì, Cristian, questo passaggio mi sei arrivato a fondo scala. Beh, sono in piena Budibudi, non so la Graziella. Ok, caspita, fondo scala da mi stai arrivando da lì. Vabbè, metto un'antenna sera sul tetto, nella macchina. Sì, quando vanno bene le antenne già si sente bene. Guarda, la base della Sirio non la funzionerà, la base magnetica, ma sono rimontato la Lemma da 1,5 metri, che funziona meglio della... vabbè, tra la Lemma e la frusta nera, forse meglio questa. Che io ne ho due della Sirio, una è la Mini, non mi ricordo come si chiama, che c'ha quelle viti che si regola, quella specie di anelli di grinati, no, per regolare il ROS, mentre l'altra è sempre una... no, l'altra è Sirio S9, insomma è alta più di 1,5 metri. Guarda, 1,5 metri, guarda, non è più di meno, 1,5 metri va benissimo per la macchina, non mi accontento, guarda. Qualcuno sotto che sta chiamando, però non ho capito chi è. Avanti sul canale 10, chi è? Avanti sul 10, la città di Sassari qua. Amico, questo passaggio non ti sento più, prima sei uscito, ma adesso non ti sento più. Cristian. Dimmi, dimmi. Lo sentivi? No, non lo sento per niente. Da Pio Pio però, capito, ho sentito Brecco, canale 10, attenzione, però poi quando gli ho detto di entrare sentivo che c'era qualcuno sotto ma non si capiva niente. Cioè che era basso basso, io c'ho il QRM, ce l'ho io. Un pochino alto stasera, anche io lo sto vedendo. Sono in macchina, figurati, sono tanto andando a casa, non ho il QRM. Il QRM ce l'ho Santiago 5, 6, oscillante, capito. Ma io ce l'ho basso QRM, abbastanza basso, ma... Ho lasciato un po' un attimo di bianco a vedere se c'era qualcuno che entrava, non c'è nessuno, ma al lavoro sei qui. Oggi sono cosa libera perché ho fatto il vaccino due giorni fa, mi ha dato proprio mal di testa, adesso mi sono ripreso, meno male che vado a lavorare. Sì, quando ti fa il vaccino un paio di giorni rimani col braccio indolenzito, e l'ha fatto anche a me così. Ma non ho il braccio, mal di testa. Cosa ti hanno fatto? A me Pfizer. A me Moderna. Tutte e tre dosi Pfizer, e mi ha dato solo fastidio al braccio un paio di giorni, poi di altre cose niente. Beh, tre dosi di Moderna, mi ha fatto un po' di febbre, 37, ma niente di che, e poi mal di testa per due giorni, da che perino mi è passato. Questo è un periodaccio comunque, tra Covid, influenze, non se ne capisce più niente. Guarda, io ormai sono... io ormai so cosa dire, se mi ammalo, le consigliette, detto che Covid, tanto alla fine ci vado anche all'ospedale. Gli ospedali sono tutti carichi, Sassari non prende neanche più ricoveri urgenti, tutti dirottati a Ozieri, perché Sassari è tutto pieno di casi Covid. Lo so bene pure, che ho amici che ci lavorano in mezzo, medici e infermieri, e sono alla fermo delle porte. Qui ha un casino, dice che ne saremmo usciti, invece mi sa che è peggio di prima. Ma guarda, a me devo scendere, ho l'istano io. io oggi non sono sceso perché il mio medico mi ha detto devo scenderci, che c'è 18 casi di Covid in clinica. Guarda, non ci scendere, fai prima. Se così sì, ti conviene non andarci, magari ci vai un'altra volta se puoi rinviare quell'appuntamento lì in quelle zone, perché anche io l'ho sentito che Oristano e quelle zone lì sono invase. Oh, guarda, ho chiamato il medico al telefonino quando sarà, 4 giorni fa, ho detto, ma dottor, ma questo Covid non visita, no, rimandala, se te la mando io, perché se guardi il Covid non ci vede neanche. Ok, ho capito. Sì, conviene fare così. Porca miseria, non ne usciamo più da questa roba. Speriamo nella primavera, col caldo, che magari si diffonda di meno, come era successo già la scorsa estate, capito? Si spera sempre nella vita. Speriamo che canta, che non me lo posso più io. Sono all'estremo della pazienza. Noi al lavoro ci stanno poi costringendo a usare le mascherine, quelle FFP2, che sono grosse qua, e a fine delle 8 ore, a fine del turno sei crepato, che non ce la fai più. Ma sai cos'è questa mascherina FFP2? Ti respiri, tu anche le mani, hai capito che mani, la respiri tu in automatico, capito? Cos'è il brutto? Non so, aspetta che c'è stato un brecco, avanti il brecco, chiedono brecco e poi non entrano, vai Cri. Guarda il brecco. Buonasera Nicola, Lupo Grigio da Sassari, ti riceviamo forte e chiaro. Io sono venuto con la RM, come la prende? Allora sì, dalle parti di casa mia, diciamo, un po' più in basso, però io sono nel quartiere di Luna e Sole, su vicino al Bulling. Sì, guarda, qua mi sta arrivando Santiago 9 a me. Piatto, quando vuoi siamo qua noi in chiacchiera. Ha ricevuto, sì, ma magari se più avanti, magari se hai la possibilità, te ne metti uno piccolo anche in macchina e uscirai anche meglio, eh. E a te Nicola. Cristian, ci sei ancora? Ma sento basso lì ancora, eh. Praticamente zona Cappuccini, sta uscendo con un portatile, immagino che abbia collegato l'antenna esterna in macchina, capito? Quindi non ha molti watt, qua in linea d'aria da casa mia è vicinissimo, quindi mi arrivava con Santiago 9, qua lo sentivo benissimo. Magari in mezzo ai palazzi eccetera non riesce a uscire, capito, dove sei tu. È molto probabile. Allora salutalo, io lo sento basso, salutamolo. Allora, se sei in ascolto, ti dà un grande saluto Cristian, che ti sentiva basso, però lui è in un'altra zona, capito? Ho capito, sì, beh, dal primo piano o metti l'antenna sul tetto o altrimenti hai difficoltà, diciamo, a comunicare con tutti in mezzo ai palazzi, capito? Allora già avremo modo di sentirci in condizioni migliori, Nico. Siamo qua, a noi ci fa piacere se entra sempre qualcuno di nuovo, così allarghiamo un po' la ruota a Sassari, capito? Vai Cristian. Ciao Nico, se mi senti, dai, siamo nel prossimo, dai. Ti lascio anche io copiato poco a poco. Ti ha sentito comunque Cristian, però ha detto che c'ha il QRM un po' alto e quindi se a quel livello lì e fa fatica anche lui. Adesso mi sposto nei palazzi, che sono in mezzo ai palazzi di Via Maggiore, che è un bel casino. Capito, sì, se ieri stavamo parlando con Gianni Doppio Room, stavamo parlando con Franco, sempre di Sassari, che però si trovava a Fertili al Porticciolo a pescare ieri sera, poi sono venute delle persone a casa, ho dovuto chiudere, quindi ho salutato velocemente e io sono uscito, glielo dirò comunque se lo risento Gianni, va bene. Qualcuno sul 10 che vuole entrare? Non c'è nessun altro. Nicola è in ascolto, ha detto che rimane in ascolto e niente, io facendo un po' di cose a casa, sto aspettando che rientri mia moglie e anch'io mi sa che adesso rimango un po' in ascolto, nel caso ci sentiamo più tardi, tra una mezz'ora, però sono in ascolto e se ti dovesse servire qualche controllo, qualcosa, già ti rispondo. Scusami, anche io mi sto facendo la macchina, sono un amico che sta giocando a tennis e adesso vado, me lo guardo un attimino. E poi faccio un po' di spesa, che stavo costruendo dragoni oggi, che era annoiato. Bene, ci sentiamo più tardi, Cristian. Più tardi, dai, anch'io lo stavo ascolto tanto, dai. A gappa, più tardi. Chi vuole un po' di QRM? 10, c'è qualcuno qua? Non c'è qui canale 10? Che è avanti? Buongiorno. Ebbene, Pomponius. Allora, come andiamo? Aspetta un attimo. Ehi, fai con comodo. Anthony. Ehi, ya. E allora, cosa mi racconta? Sì, niente. Cosa vuoi che ti racconti? Sono a casa. Sono uscito stamattina. Aspetta che abbasso. Ok. Allora sai quello azzurro che mi si è crepato? Ho detto te l'avevo, Antone. E ieri me l'hai detto, che cos'era, 2009? Ehi, si è bucato il processore. Cazzo, come cazzo hai fatto a creparlo? A me ne dici. L'ho acceso e mi usciva la scritta killed, che vuol dire morto in inglese. Ho capito. Quindi devi lampare tutto, va? Allora, non si può aggiustare quello, è partito. Il telefono la stessa cosa, la scheda madre mi si è bruciata del telefono. Quello lo fa a volte. Me l'ha fatto a me il K4, me l'aveva fatto. Tutto a un tratto è sparito, come si chiama, e mi segnava che in pratica non, il processore non funzionava più, ha giubilato da Giovan Patto e mi ho comprato un altro. E infatti adesso chissà quanto costa comprare, non ne compro più di quelli cinesi, perché se ti fanno quel difetto lì. E allora piano, da lì, devo comprare un altro telefono. No, il telefono me l'ho già preso, quello che mi si è bruciato, l'altro, devo buscarlo, se lo trovo usato. Trovate uno, uguale, magari, a meno che non ti fai cambiare il processore, lo mandi in qualche ditta e ti fai cambiare il processore. È un dirumando in Cina, Romando, se è cinese, di chi di cinesi, da quattro soldi non servono a niente, non è più più. Ah, se è cinese lascia perdere, allora fai una coppata d'uovo per quello che costa. No, ma non ne voglio prendere di quelli, se lo trovo usato me ne prendo uno usato, da. Solo vai a sapere chi ce li ha. È difficile tu usato a Sassari, a meno che non guardi su internet fuori qualcuno che ce l'abbia uguale, che non lo sto usando, che lo vuole vendere. No, uguale a quello non ne piglio, me ne prendo uno usato di quelli che conosciamo, ce lo trovo. Ma che costa è una vacca di dinà? Lo so, costano parecchio, costano. Era per ascoltare più che altro, mi. Sì, già ho capito, ti serve per ascoltare. No, io ho quello piccolino VEU cinese, lo stesso. Finora sta ancora funzionando. Ogni tanto lo uso, lo accendo. Piccolino cinese. Sì. Il VEU che ho io è piccolino, questo cinese. Non è neanche che si chiama Lexen, si chiama VV898. C'ha 10 watt d'uscita, c'ha. Quanto c'ha di uscita? Ah? Quanto ha di uscita? 10 watt. 15? 10. Ho il microfono con la tastiera e l'attacco quello telefonico, capito? In pratica nel frontale. E tipo quello che avevo io, la matta sinistra sarà. E questo Giancarlo ha staccato la ventola da sopra, da dentro. Questo già funziona bene, non dà problemi, gli ha memorizzato tutti i canali di qua. E sto usando quello. Capito? E cappa, ma la ventola attaccagliela, perché sennò non si fa mai, se scalda è un casotto. No, non scalda niente qua, usa scalda, va. l'ho usato anche d'estate, è un demonio. A te l'unica cosa dove si trovate, guarda, andava bene un coso in qualche banda e se la piglia in culo, capito? La seconda mano. E ti ripassi mi paga 500 euro se lo trovi pure. L'avevo pagato nuovo 750, io mi sembra, me l'ho venduto 500, che ho fatto malissimo. Beh, hai fatto malissimo. Si trovano qua di banda, stanno vendendo, cioè anche di banda stanno vendendo, ci sono anche qua di banda, ogni tanto qualcuno lo vende, o di quelli antichi, che fanno VEU. E di quelli un po' antichi, di quelli che conosciamo. Io ne ho altri, l'unica cosa che ho sono i costi, i Baufender. Ho due V5 Review Plus, ciò, e poi li ho 8 e basta, due, mi pare che ne ho 4 di quei portatili. E già ce l'ho uno io, però quelli lì, come gli attacchi l'antenna esterna, fanno casotto. No, io ho attaccato l'antenna esterna, funziona bene il mio, il V5 Review Plus, è fenomenale. Ma il mio lo metto in U e fa ogni tanto, che non si riesce a chiudere lo squelcio. No, il mio è perfetto, non sgrada di un millimetro. Il mio si apre lo squelcio e a uno, se c'è gente si apre, se no rimane serrato. Yes. Su 7 PMR sono adesso, dall'ospedale civile. Montami nelle zone, cazzo, boh. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Ehi, ehi, abbassa le voci, cazzo, che mi sembra che stai vendendo pesce. Buonasera a todos. Buonasera Gianni, ben sentito anche a te. C'era Talino che poi abbia sparito. Già sono qui. Già è qui, ha detto Talino. Cari che siete. E a Cristian lì, e allora Cristian, dove sei di bello? Allora in giro, dopo tanto. Dove sei? In giro in macchina. Ma che zona sei? E sono sulla casa, e sono a prendere i soldi a Eurospillo. Ah? E vabbè, non parlavi di soldi che ci ho speso in questo mese di... condominio, e bollo, l'assicurazione, insomma, è tutto di più. Devo mangiare anche a casa, c'è un frigo con l'eco. E cosa? Un frigo con l'eco. Io capisco l'eco, però non capisco cosa dice prima. Oh, il frigo con l'eco. Con l'eco? Il frigorifero. Ah, c'è il frigo con l'eco. Ma chi è più tu? Ah, di cui preso cos'è questo frigo con l'eco? Vabbè, avanti, Tatalino. Chi è? Avanti. Ciao Giovanni. A me non mi hai salutato, quindi non ti dovrei fare entrare. Vabbè, io chi sono? Anch'io sono qua. Ciao Peruccino, mi hai sentito? Avanti. Se l'ha conosciuto il padrino, oi, andiamo bene, andiamo. Calla gara. Allora, cosa ci racconti per oggi? Allora, ecco. Avanti Cristian, amica, c'è Peroncino, avanti. Ciao Peroncino. Per casa. Ma tu ti piace la birra, da giù un Peroncino bravissimo. Natali, ci sei? Natalino! Si è spostato qui. Senti bene, sì, oggi già ti sento bene. Cristo, lo senti bene tu a Peroncino? Avanti! Sì, ti sento basso basso di radio però, No, io no. Io sì, adesso sono a Woody adesso. Io Cristiano sento bene il radio, non è, era prima bassa, adesso va bene. Adesso direzione Woody Woody, zona alta. Tu è che c'hai il microfono troppo alto, è impastato, ma se ti comprendi non dai su Vindizio. Adesso com'è? Cosa? Adesso è bello il microfono. E adesso si esce chiaro. Prima era tutto... No, mi sto andando vicino alla tua zona, Gianni. Ehi, non passa se tu qua senti l'acqua calda sotto. Ma cosa devo dire che devo prendere, mangiare i gatti, devo prendere da Ditali. Da Ditali stai andando? Ehi, devo mangiare i gatti, devo prendere scatole di latte per casa. Ah, salutami a tutti, dai. C'è Saratte, la mattina non ci sto, fidati. Comunque puoi entrare, c'è il parcheggio mi da Ditali, lo sai, sì. Sì, lo so, sto con l'antenna pure, figurati. Ma tocca? Sì, alla grande. Ah. Vabbè, io non la metto, quando vado nei garage così non la metto mai. Una volta me ne sono dimenticato, sono andato a Montinedu, quello che c'è... come si chiama, centro commerciale Lune Sole, sono sceso in quei parchi e sento tra. Lo fa anche a me le volte, ma il telegrafo, forse i denni. Vabbè, ti faccio la cappotta di la macchina giù, quando l'elata ce l'avevo col buco della cappotta. Io sono la base magnetica, te l'hai vista l'antenna, allora tranquillo, che non me la spacca. Lo so. So che c'è la magnetica, ma io ce l'avevo col buco. Avanti, avanti. Lei si ritentisce, sì. C'è bella col buco, c'è la macchina. L'unica antenna che era pesante era la Turbo 2001. Quella sì che ti rompeva la cappotta. La pirandella l'aveva fracassata, gli aveva. Avevo fatto il buco da, forse essere da 8 mm, l'avevo fatto da 12. A me non me l'ha mai rotta la cappotta. Ce l'avevo 12 anni sul tettuccio. Non me l'ha mai rotta, una volta mi sono agganciato a un albero e me l'ha un po' piegata. Come ha forzato, c'era un ramo e si è bloccata con il ramo e ha forzato un po', me l'ha piegata, ma da dentro sono riuscito a tirarla di nuovo fuori. E poi alla fine me l'ho messa, invece che al centro cappotta, ho chiuso con il centro cappotta, il buco, e l'ho messa davanti dove c'è la plafoniera. E lì esiste più precede la barretta in ferro, ecco perché è più forte. Quella dopo 2001 è una cosa allucinante come antenna, è grossa, pesante, è già ne fa danno, ne ha fatto danno a parecchia gente quando ha fatto il foro. Invece gli altri tipo di antenne, quelle più corte, quelle già sono leggere. Vabbè, però è un'antenna valida, è una mantova sulla cappotta della macchina che c'hai. Va benissimo come antenna, non c'è nessun problema. Santiago 7, 8 a Porto Torres, quindi va molto bene. E non ero nemmeno al quadrato, se no arrivo più forte anche. Ero vicino a casa. Già va bene con l'antenna, già va bene. Ma tu scatti la basetta di 5 ottavi, ce la metti nella basetta di 5 ottavi, li metti i radiali, lo sai come il pompa la Turbo 2001, quella della macchina. È come avere una stazione fissa, come una stazione fissa piccolina. Tra l'altro te lo ricordi a quella di Gnonno che ce l'aveva con i radiali l'antenna sul taxi? Sì, già lo so, già me lo ricordo. Non ho più visto Alessandro, non so se è vivo ancora. Io guarda, tanto tempo fa l'avevo visto caricando con una motocarrozzella, stava caricando le piante da coso, come si chiama, quello che c'è vicino al cimitero. Stava caricando delle piante sulla moto e probabilmente faceva trasporti per quella ditta. Ah, ho capito. Io più visto ne ho sentito più. La verità. Sono passati un bel anni, almeno una quindicina. Sì, se non di più. Non penso che sia vivo. Succiava anche molto, quindi l'avevo un bel... Davvero sì, davvero, davvero. E whisky, mio, whisky, roba super alcolica. Sì, ma lì a Pampa andavano tutti i tassisti, cosa... secondo te cosa bevevano? C'era la fila, c'era lì all'inizio delle... di via Brigata Sassari. Ogni sera andavano lì tutti i tassisti. Ma andava a Bartolino lì? No, a Pampa, quello che c'era all'inizio di via Brigata Sassari, andavano lì tutti a bere. Ah, capito. Vabbè, cosa avevo? Vizietto. Sì, quel vizietto c'erano anche i muratori, se per questo. Ti credo non bevano i muratori, qua. Sai quanti li ho visto io? Uscire dal posto di lavoro, andare a pranzo e... scusa di pranzare nel bar. Si bevevano tranquillamente la birra senza dire niente. Adesso no, tutto è cambiato, adesso ci sono i controlli, ogni settimana fanno i controlli, se ti trovano bevuto sei buttito, ti tirano per il vura. I muratori ritiravano settimanalmente, come ritiravano si sputava tutto lo stipendio e roba da bere, avevano quel vizio lì. E adesso già bevono il sabato quando escono, e poi la domenica rimangono sobri, capito? Sì, e poi tutti bevono questi operai qua, tipo quelli del Verde Urbano, tutti i grandi ciuccioni sono. Ah, uiaia. Ma Natalino lo volevano alcolizzare, che invece non ce l'hanno fatta, lo volevano sempre al Vindiolo, va bene. Io che sono astemio. Sei astemio, Cristian? Sì, sono totalmente astemio. Curulato. Sul lavoro non bevo. Cioè non è ice? Sul vino non bevo. Allora io non sono bevitore, però per dire se mangio la pizza, la birra la bevo, ecco. Ma non è che sia di quelli che vanno a cercare la birra fuori luogo, senza mangiare, cose così, no, non ne bevo così. Io ne vedo certi dalle 9 di mattina con il pullo in bocca. Sai cos'è? Allora io bevo con sono in compagnia di amici, da solo non le riesco a bere, ci sono con amici, con te, con i tuoi amici, una volta di frattente bevo, se no non bevo niente. Ah, io diciamo che già la birra la resisto meglio, se è fatta bene ne resisto, però non mi ha fatti nulla di bene, no? Bevo giusto, tanto giusto, poi c'ho sempre un limite io, a quel limite lì dico basta, non mi imbriagheggio mai. Io sono così a me, tanto a me. Non ho bisogno di abbracciare naturalmente. Invece peroncino! Peroncino! Non ho capito nulla di quello che ho detto perché c'è l'eco a manetta. Basso e basso pure, io sono basso e basso. Togli l'eco! Peroncino, togli l'eco! Guarda, ah, così mi capisci, guarda se c'ho l'eco, mi capisci? Così mi capisci meglio? Cristian, così bene va che l'ho toccata adesso, così bene va il microfono. Poco abbassalo. Cosa? Poco abbassalo. Guarda adesso. Lascialo così. Ma c'era molto eco? Così è perfetto, guarda. Così eco non ce l'è però. Vedo poco a poco. Guarda adesso, 1, 2, 3, pro. Lascialo così, perfetto. Io l'ho aumentato per farvi capire che con l'eco alto non ti comprendi nulla. Io ti ho abbassato l'eco, vabbè, tutto abbassato. Ma è scimito, sinceramente è parlato scimito. Io l'eco lo uso solo in lontananza più che altro. Tu dovresti imparare a parlare piano, perché soprattutto le parole una sull'altra. Io l'eco lo uso in lontananza, perché adesso sono sotto casa tua a linea d'aria. Ehi, ehi, occhio che non ti parla tutto. Adesso è a Puligolo, se c'è a Puligolo. In via Puligolo, sì. Esatto. E basta stare in lui vicino a casa. No, sono... non c'è il CRCS, c'è presente? Ehi, ehi. Ma solo sì? No, sono con un'amica. Amica, no? Amica, basta. Passa, ma non glielo chiedo. Dai, scherzo. Comunque saluta, ma... E un giro, riprendi. Peroncino. Peroncino, è un bene. Attenzione al peroncino. Ma Natalino, ho perso, sì. Vabbè, là. Che sia? Dilla. Ha ripito, sì. No, ancora no, sono fermo da Poligono, parlandomi una partita di tennis. Serve a Poligono? Ma no, una partita di tennis. Adesso ci via Balbetta, così. E poi di Rogero. Alla rotatoria a sinistra. Tu non so che sia tua e ti sono il campanello. E vedi, non c'è problema, ci prendiamo il caffè. Ma non ci conosciamo, mi sente più, boh. Sì, che stai uscendo. Vabbè, raga, gli do la birra e... gli do la birra e te la faccio portare da Cristian. Poca gente, buh. Sono tutti in altre frequenze, forse, buh. Oh, yeah. Ascoltando, non lo so. Cerco subito, sono sulla frequenza, basta cosa che mi collego. Ce l'ho anch'io qua, il ricevitore. Allora, io, pare ci riprendi però. E io sono là. Sono tu, io. Oh, vecchio. Io, vabbè, almeno vado dove vuoi. Io non ci posso andare, non ci vado. Questo qua, perché qua posso modulare l'anno. Perché io posso andarci, ma non posso modulare. Andare ci posso andare anche io, ascoltare. Ma cosa fai quando ascolti? Io non ci prendo gusto. E anche io, guarda, sentite, IS0, Charlie Papa, IS0, e poi il Marco a Sestare, ognuno per la luglia. Poi riferrata il canale monitor, quello che usano, e parlano come 27, la stessa cosa, non so cosa accadde. Adesso non te lo so dire, guarda. Io vabbè, già vado bene qua, non c'è problema. A me le frequenze radioamatoriali non mi hanno mai appassionato. Fanno passaggi corti, non fanno. Non mi piace. Guarda, neanche a me, se no vi togliato, non so prima anche la patente, ma non lo dici, non mi frega niente, guarda. E adesso lì. Questa fa la famiglia delle antenne, metto la bibanda sul tetto insieme a fare il baracchino e basta. Sto per ascoltare, basta, sto solo per ascoltare. Qui stiamo fidati davvero, che va bene, costa 60 euro, una gazzata. Ed è un'antenna 58, va benissimo. Sera. Buonasera. Sera lì, avanti. Parlo da questa parte appena tamponato. Ciao Carlo, ti hanno tamponato? Il tampone ho fatto. Ah, pensavo ti avessi tamponato in macchina. No, come va Gianni? Cioè va bene, mi sto rilassando ogni 5 minuti perché ero fuori sino a 10 minuti fa. Stavo alzando la testa a vedere se vedevo la antenna, ma non sono riuscito a vederla guidando. Poi saluti da Nicola, ci ho parlato stasera, aveva un portatile zona Cappuccini, mi ha detto che lui è al primo piano e che se riesce metterà un'antenna, ti conosceva, mi ha detto. Sì, Lupo Grigio, caspita, un amicone. Esatto, esatto, è lui. Stasera l'ho sentito. Pagava. Sì, un pochino ex carabiniere. Capito, chi c'è oltre te, Gianni? Oltre me c'è, allora, Peroncino da Plattamona. Perché gli ho messo il nominativo, l'ho battezzato io. Si chiama Peroncino adesso. Non si chiama più Giovanni di Plattamona, ma Peroncino. Poi c'era Natalino, c'era Alessio che non rispondono, Cristian e io, dai, va per TV. Sì, va bene. Sì, io prima parlavo con Cristian quando ho sentito Nicola. Buonasera a tutti, a chi c'è, chi sta ascoltando comunque. L'hai sentito stamattina? Stasera, intorno alle 4:30-5. Ero con Cristian che parlavo. Ah, ecco. E io a quell'ora non ho acceso, stavo cantando e non ho acceso, là. E niente, perché c'ho anche un altro hobby, il canto, mi piace cantare, canto su internet, quindi allora lì stavo cantando. Bene, canta che ti passa, già. Franco ieri ne ha preso dei pesci da Fertilia. Quello da qui l'ha preso. Ciao, avanti Cristian. Ciao, bravo. Non mi sei più passato a prendere un caffè, boh. Non ce l'ho fatta, già, è incasinato, ho perso. No, niente, ho preso una seppia e un calamaro ieri notte e basta. Ma freddo un bel. Vabbè. Almeno quelli li ho presi, là. È grande la seppia. Oh. Quanto è la mano, dai, diciamo. Con la tottanara, dai, è pescato e basta. Con la canna no. Scappa di positivo. E si conferma. Vabbè. Qualche volta avvisa quando fai che andiamo insieme, se c'ho la tottanara, c'è tutto quanto, la canna già pronta, piccolina, proprio per non fare fatica, quando stai sempre girando il mulinello ce l'ho piccolino, tutto fatto apposta per il calamaro. Ma te l'ho detto l'altro giorno se volevamo andare, mi ha detto che eri impegnato, quindi non te l'ho detto, capito. Io ieri mi sono trattenuto un po', ma c'era troppo freddo già, non faceva. Ma io mi metto la tuta, mi metto i pantaloni felpati di quelli impermeabili, c'ho la parte di sopra che è grossa lo stesso, ma non c'è problema. E io c'ho i giubbotti, metto quelli lì e a faccia più di freddo un po', ci vorrebbe il passaportante. Vabbè, quando vado ti avviso, dai. Ok. Ma non ci sei andato in quel posto che ti ho detto io? No, negativo, non ci sono andato là. Sempre un di guai. Da giubilato di dove c'è una volta in più. Però non lo so se ce n'è ancora, io ti parlo già di un po' di tempo, ma ci dovrebbe essere perché c'è il faro che illumina la chiesa lì, che illumina tutto il mare, e a parte dove si illumina il mare tutto bene. Ho capito. No, non ci sono andato lì, veramente non ho provato neanche andarci. Ho voluto provare lì a Fertilia, ma è un casino, non c'è niente. Non è più come prima, fra io quando andavo pigliavo rati, pigliavo di tutto. Ho preso certe triglie a Porto Torres con un amusato, di chi si di notte mi. Con un amusato, ma triglie belle a vivi. Adesso non c'è più niente, già. Non è più come prima, capito. Con l'antenna piazzata. No, negativo. Negativo, non ho piazzato niente perché è incasinato in campagna, stavo sistemando un po' in campagna, ho capito. E di te la campagna quella? Cosa? In campagna te la metti quella lì, se non ti metti l'altra che ti ho dato. Sono indeciso, adesso vedo, dai, vediamo un po'. Mica chi se la divide a me, mica dove la gabbia, non sa. I gandola di moto. Vabbè, avanti che Carlo, così saluti finalmente a Franco. Buonasera Franco, ieri ti sentivi benissimo da Fertilia, infatti chiedevo se avessi preso qualcosa, ma già ho sentito prima. Niente, io ero a casa stasera pomeriggio perché non sto bene, mi sono beccato un po' di raffreddore, mal di gola, ho la terza dose di vaccino, adesso sono andato in farmacia in Viale 30 a farmi il tampone, meno male negativo, e mi sto scaricando il certificato verde aggiornato adesso. Gappa. Bene, mi ascolti? Sì, a fondo scala da queste parti, qua arrivi forte. Ok, Gianni, e tu? Lo stesso, microfono normale sto usando. Sì, ti sento bene, con che radio sì? Sto usando il coso, il 48, però senza eco. Ehi, vabbè. Se va bene, già presente con la radio, là. Se va bene. Ma ieri c'avevi il 150 attaccato. Ieri c'avevo il Midland, quello piccolo, che c'ha praticamente solo la M 40 canali, e il B150, sì. E andava bene, sentivo bene. E infatti, è l'unico apparecchio che lo potevo pilotare, era quello, capito già. Perché con questo che stai usando adesso no? Oh, negativo, si mangia la radio perché c'è troppa uscita d'ingresso, questo da 25 watt, capito? Sì, basta abbassarlo, abbassi il watt e lo puoi usare. Sì, vabbè, non ho voluto toccare, ho voluto lasciare così. Va bene, niente, tutto lì. Se gli dai 2 watt a quello lì che c'è con una radio spettacolare, a me 747 mi ha aumentato anche la radio, non solo di rovinatela, però aumentata. Eh beh, perché è diverso amplificatore, capito? E adesso vedo un po'. E va bene, dai, ma lascio quello già. Già va bene in macchina, non dà problemi, capito? Vabbè, se pilota bene, e come stazionare come si? 1-1 già, stavo usando quell'antenna famosa che abbiamo tarato assieme, ti ricordi? Ah, sì, sì, sì. Quella lì l'abbiamo tarata 1-1, è troppo, va troppo bene. No, va benissimo. Vabbè, è fatto bene che non me l'ha data, così non ho fatto il buco nella macchina. Se no avrei buccato la macchina, avanti! Peroncino, avanti! Scusate un attimo, vai, riprendo dopo. Peroncino, avanti! Tutti i gatti muti, Carlo, ci sì. Sì, Gianni, ti ho detto, stavo scaricandomi la certificazione nuova, aggiornata, e ho finito adesso. Io ce l'ho già, l'ho fatto anche plastificare, oltretutto. Io porto un vaccino, l'ho fatto il 24 di dicembre. L'ho fatto il 24, il giorno prima di Natale, infatti tutti mi hanno sgridato, i parenti. Cioè, poi se ti senti male, ti passi male a Natale, no, me lo passo male, non ti preoccupare. Pensando che ci fosse poca gente il giorno, avevo l'appuntamento alle 9:30, sono andato alle 9 e c'erano già 35 persone. Spesso ti dico, io sono andato perché mia moglie aveva l'appuntamento il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. L'ho accompagnata anch'io, ho chiesto e mi hanno fatto passare, perché io invece ero al 19 di gennaio, quindi me l'hanno fatta l'ultimo giorno dell'anno. E giusto, tanto eravamo a casa, capito? Quindi anche se stai un pochettino male col braccio, non è che già è sopportabile la cosa stando a casa. E comunque c'è la fila anche per fare il tampone nelle farmacie, ma fila di 20-30 persone. Io sono stato più di un'ora e un quarto in fila poco fa. Io non ne ho fatto uno solo, ma l'ho comprato e me lo sono fatto io a casa, punto. Meno male che è tutto negativo, io ero con una persona positiva seduta in macchina e praticamente il giorno dopo mi ha chiamato dicendo che era positivo di farmi il tampone, me lo sono fatto ma non c'avevo nulla, era negativo per me. Ma avevo già fatto la terza dose, capito? Vuol dire che avevi la mascherina e magari, diciamo, sei stato un po' prudente e non ti è successo niente, perché è molto contagiosa questa variante che c'è adesso. Io, perché non so se mi senti parlando, ho la gola un po' di raucidine, raffreddore, ed ero preoccupato per quello, ho detto ma non è che questa roba è Covid. Invece è freddo che ho preso, uscendo la mattina presto, avevo un servizio esterno avanti ieri e quindi ho preso un sacco di freddo. C'erano 0 gradi in aeroporto. Pazzarola, lo so. Perché quando l'altro giorno, lunedì, sono andato a accompagnare mia figlia che doveva partire a Bologna. Poverina, è venuta qua a farsi le vacanze di Natale, ci ha preso il Covid, è stata in casa, è salvata, non ho potuto fare nulla. Un bel problema questa cosa, speriamo che finisca quanto prima. Vabbè. Pazienza, ci vuole. E oltre a questo il problema è se ne sta sopraggiungendo uno più grosso, quello della terza guerra mondiale, che c'è la Russia che vuole conquistare parte dell'Ucraina, non so se hai sentito, ci sono gli americani che stanno intervenendo, c'è un casino qua. Sì, purtroppo stavo seguendo anch'io quelle notizie che non sono tanto buone, perché un conflitto mondiale adesso, dopo la pandemia, ci fa nuovi. Sì. Pandemia no, la bomba, le bombe ti fanno saltare in aria, non è che per carità, speriamo di no. Anche il Papa ha detto, ha raccomandato la pace e addirittura ha detto anche chi ha un figlio gay di accettarlo, di non mandarlo via, che i figli sono sempre figli, che siano gay o no, bisogna accettarli. E quello è vero. Purtroppo la natura si manifesta in diversi modi e quindi, siccome fa parte della natura, bisogna accettare tutto, anche quelle persone lì. Il Papa ha ragione, in effetti. Avanti. Capito Gianni, è la vita, io sono fatto in guerra, va tranquillo. A te accettato, ti hanno pista. Ah, a me va tutto accettato, Tesara, eh? La spesa fatta. E mi lascio vado, un po' vado, mi prendo due tronzatine per cena e poi e l'altra per colazione, se no mio padre mi uccide. Va bene, dai, noi siamo qua. C'era Natalino, vediamo un po' se c'è ancora. Natalino, sì. Ecco mio padre, sono in porto dell'altra per colazione, sei nata con una gamba e mi alza calcio di chiuello. Ah, così. Carlo, mi è capito che ho detto poco fa che ho cercato di alzare la testa a vedere se vedevo anche la tua, ma non ce l'ho fatta. Dalla mia si vede da via degli astronauti, hai presente dov'è la scuola guida di Franco Chessa, in via degli astronauti, c'è anche un bar lì vicino, da lì praticamente si vede, devi guardare dentro quel parco, oltre gli alberi in alto e la vedi. Ah, io pensavo che fosse quello il palazzo. Praticamente io sono praticamente dietro quel parco che c'è il muraglione in via degli astronauti, hai visto? Il muraglione arriva sino alla rotatoria di via Luna e Sole, quello è tutto delle suore, è un parco grande, mi sa che sono 2 ettari, e praticamente il mio palazzo è lì dietro, io quindi davanti alle finestre ho quel parco, capito? Però l'antenna si vede da lì perché gli alberi in parte li hanno già tagliati, per cui passando sul marciapiede la vedi. Ho capito. No, io stavo guardando nel palazzo della scuola guida, ecco perché non l'ho visto. Da lì, dalla scuola guida, guarda di fronte alla scuola guida, dentro quel palazzo. Praticamente il mio palazzo è quello che finisce nell'angolo, capito? Si vede dalla strada lì. Sì, ho capito, là. Vabbè, comunque il vento non ti ha dato fastidio, niente, non la fa ballare no. No, niente. Pensa che non ho messo neanche tiranti. C'era scritto se nel caso viene montata l'antenna eccetera si poteva mettere qualche tirante, però detto tra noi c'è un palo da 2,50 metri alla base, 3 mm di spessore, capito? Dove dentro ho inserito gli altri tubi telescopici, perché erano solo 3 pezzi, io ho aggiunto il quarto, capito? Con un tubo che ho recuperato giù in garage, l'ho tagliato, gli ho saldato i bulloni, capito? Gli ho messo le viti per stringere, perfetto. E poi l'ho piazzata praticamente in basso e poi piano piano ho tirato sugli stili e pian piano li fissavo, capito? Però è ferma perché la J-Pole appunto è a forma di J e ovviamente i due stili che salgono, ce n'è uno alto, che è alto 7 metri e fruscia, e l'altro più basso a 2,50 circa, però sono collegati tra loro, capito, con una specie di fermo, per cui è bella stabile nella base. L'antenna praticamente irradia nella parte finale, la parte finale quando c'è tanto vento flette un pochettino, ma non più di tanto, però io ho guardato giù, che a me interessava giù il palo, e insomma ed è tutto bello stabile, capito, nonostante l'antenna sia anche grande. Se tu avrai un'altra occasione di passare in quelle zone, che la vedi vista da lontano, sembra anche un'antenna piccola, capito? Non dà l'impressione di essere quell'antenna grande, è anche abbastanza discreta come antenna, capito? Perché non ha radiali, però è una bomba, funziona molto bene. Sì, quello vabbè, è stato già appurato. La seconda antenna, quella che è 2 metri e passa, Per che cosa serve? Per irradiare lo stesso o funge da radiale? Non lo so. Quella ti serve praticamente per tarare il ROS, capito? C'è il tratto finale dello stilo che è scorrevole, molli, c'è una vittina, una fascettina, lo devi fare salire o scendere, capito? Però io non l'ho neanche toccato perché Claudio me l'aveva già tarata a 2 metri da terra e lui mi ha detto provala così. In effetti io sulla 27 dall'1 al 40 la lancetta nemmeno si muove del ROS, capito? Non ho neanche uno di stazionarie. Come la mia lo stesso manco si muove. Comincia a salire a 1 e 1.